Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Fredda, congelata per questo inizio del sabato. Io non lo so, arrivo il pomeriggio qui in diretta ad aprire le dirette di Radio 24. La mattina ci sono Alessio Maurizi, Federico Taddia, il nostro Oscar Giannino con tutta la sua squadra di maschi. Oggi erano tutti maschi, ma non lo so, noi bollenti spiriti si gela in questo studio, quindi mi sono imbacuccata con la sciarpa pronta per l'inizio di questo lungo sabato pomeriggio in diretta dalle 15 alle 18, meglio dalle 15 alle 17 col nostro sabato del villaggio, poi dalle 17 alle 18 con Daniele Bellasio e RadioTube, tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io, nonostante questo freddo, vi tengo compagnia, ma anche voi tenetemi compagnia. Ci sono due strumenti rapidissimi come di consueto per contattarci: l'SMS 349-238-6666, il mio account di Twitter @MartaCagnola, gli hashtag sempre per chiusa Twitter, ISDV, cancelletto ISDV come il sabato del villaggio, e poi cancelletto RadioTube più tardi, insomma, per il nostro lunghissimo pomeriggio di Radio 24. Ma scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme. Ovviamente le tecnologie con Enrico Pagliarini, che come ci aveva promesso ci racconterà tutte le novità in fatto di telefonia dal Mobile World Congress di Barcellona e come sempre farà uno dei suoi esperimenti, non so ancora cosa, ho molta paura. Tanto cinema, tutte le novità nel weekend, ma cominciamo a parlare anche di Cenerentola Mania, perché presto il film, ma già il fenomeno ha invaso TV, radio e giornali, e scopriremo insieme perché. Ma subito, si parla tantissimo, sempre di TV. Capiamo insieme com'è partito questo 2015, quali top, quali flop, dove ci porta la televisione di oggi. Vince il Festival di Sanremo 2015 Il Volo con Grande Amore. Cominciato un po' così il 2015 con la vittoria del Volo a Sanremo, ma soprattutto la vittoria negli ascolti di Sanremo. Io voglio un po' capire com'è quest'anno che inizia, perché sono passati due mesi, ma già ci sono secondo me delle indicazioni molto forti sui fenomeni, su quello che ci piace, su quello che non ci piace, con uno, ma altro che esperto, di più, perché il direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali. Buongiorno direttore. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti. Che meraviglia averti in diretta al sabato del villaggio. È un onore per me. Ma stai scherzando. Allora, ho messo il Volo anche perché così, in omaggio al fatto che non ci vediamo da Sanremo, così, esatto. Così facciamo un po' come faceva Tortora, dove eravamo rimasti per la citare. La canzone nostalgia, sì. Possiamo dire che Carlo Conti è stato il primo trionfatore al 2015? Decisamente, perché è stato un festival che ha avuto grandissimi ascolti, che è piaciuto in generale anche alla critica, a voi critici che siete sempre piuttosto arcigni nelle opinioni, e soprattutto le canzoni si sentono nelle radio, la gente compra i dischi, quindi direi che è missione compiuta per Carlo Conti, anche se molti temevano che avrebbe riproposto il suo effetto nostalgia di tanti programmi, mentre invece lui ha fatto un festival molto moderno, secondo me. I lettori di Sorrisi interagiscono molto, a parte adesso col vostro sito sorrisi.com, sì. Ancora poi con Twitter e tutto. Qual è la sensazione che ti hanno dato loro come telespettatori di questo Sanremo? Che sono stati molto contenti, perché è stato un festival che ha divertito e che ha riportato le canzoni alla gara, soprattutto, e le canzoni al centro, cosa che tutti gli anni dicono gli organizzatori, i presentatori del festival, e poi invece in realtà riempiono il festival di altri ingredienti, mentre questa volta le canzoni sono state decisamente protagoniste, sia perché ha portato avanti i concorrenti, sia perché anche gli ospiti erano soprattutto ospiti musicali, quindi molto bene. Molto contenti, anche perché nel cast del festival c'erano nomi molto buoni per essere un festival di Sanremo, quindi la sensazione è che sia piaciuto, e la fortuna della bravura di Carlo Conti è stata quella di fare un festival molto ritmato, con molte cose che duravano poco, quindi anche se a un certo punto arrivava una cosa che non piaceva, durava comunque 3 o 4 minuti e non i 40-50 dell'ospite speciale o del celentano della situazione, quindi uno aspettava aspettava i tre minuti successivi per trovare qualcosa che gli piacesse. L'unica che si è arrabbiata questa settimana è stata Ornella Vanoni, poi ne parleremo in RadioTube, alla quale non è piaciuta l'imitazione di Virginia Raffaele, ci è rimasta un po' male, povera Ornella. Vabbè, però Ornella ha diritto di arrabbiarsi quanto vuole, perché è una diva, è una prima donna. Adesso tra l'altro si è data anche al cinema, perché lo vedremo nel nuovo film. Ne parleremo anche con questo sabato. A fare i suoceri, cioè i genitori di Bisio, quindi mi immagino qualcosa di veramente esilarante. Ne parleremo, direttore. Abbiamo detto l'anno è iniziato sostanzialmente col trionfo di Sanremo, ma vorrei farti ascoltare un altro estratto, perché non abbiamo fatto in tempo a brindare con Carlo Conti, che è arrivata la regina in assoluto, eccola. Perché mi hai chiamato? Perché tu quest'anno sei entrata nel magico mondo delle cinquantenni. Grazie, però li ho compiuti ad ottobre. Infatti adesso ne posso già festeggiamo i 51 che ce li no, vediamo dalle no, palle. No. Ti ho visto festeggiata giustamente da Fabio. Sì, ho pensato diciamo che sono in cima alla collina e posso vedere già dall'altra parte, e non è un bello spettacolo. Ecco, però no, quando si arriva a 50 anni ci quando si guarda arriva intorno. A 50 anni però si sente proprio, quando viaggi in macchina, vedi il cartello che ho scritto 50, che il limite di velocità, ti viene il magone, io quando lo vedo, mi viene l'ansia, ma poi tante cose. Beh, le regine qua erano due, Letizetto e la De Filippi. Noi cerchiamo sempre di andare e di capire il perché dei fenomeni. Il fenomeno Maria De Filippi, regina assoluta, è incontrastato, cioè non, lei non riesce a non vincere e a non stravincere. Sì. Voi vi chiedete il perché di questo successo così enorme di Maria De Filippi? Perché secondo me sì, ce lo chiediamo, e la risposta sta nel fatto che Maria è una persona intelligentissima, furba, molto attenta a quello che succede attorno, ma soprattutto Maria ha quella grandissima dote che in pochissimi hanno di avere la scorciatoia per arrivare dritta al pubblico. Quindi salta molti passaggi e arriva direttamente a parlare col pubblico in tutte le sue trasmissioni, no? Che sia Amici, che sia C'è Sposta per Te, che sia Uomini e Donne, lei interpreta veramente quello che pensa la gente, e quindi anche nella scelta per esempio degli ospiti di C'è Sposta per Te diciamo va dritta al sodo, no? La Littizzetto, Garco, i personaggi che piacciono alla gente, mescolati a delle storie vere, che sono storie sempre comunque un po' commoventi oppure comiche, perché molte sono anche comiche. E quindi ti faccio un esempio: una cosa fondamentale di Maria è l'arrivo alla fine della puntata di C'è Posta per Te del cane Sacchi, no? Allora sì. Questo è un modo per arrivare veramente in zero secondi ai milioni di italiani che hanno un cane o un gatto in casa, che è tra i quali ci sono anch'io, che è il protagonista della casa, no? Quindi anche questo aspetto fa parte delle scorciatoie di Maria De Filippi. Beh, stasera ci avrà Keanu Reeves e Gigi Buffon, io sono lì già sul divano soprattutto. Certo, ma per Buffon o per Keanu Reeves? Non te lo dico, no, io sono per l'attore americano. Va bene, okay. Direttore, ma tu te l'aspettavi un successo così clamoroso rispetto a Milly Carlucci, che insomma sul ghiaccio è un po' scivolato? Sì, me lo aspettavo, perché intanto Notti sul ghiaccio non è Ballando con le stelle, è un programma un po' meno forte dal punto di vista proprio del format, e poi perché comunque diciamo non c'è niente che possa battere Maria, specialmente il sabato sera, quindi su questo non avevo grandi dubbi, anche se Milly Carlucci ovviamente ha i suoi fan, molti, perché poi noi parliamo sempre di chi vince, no? Di chi vince la serata, interpretiamo le serate, ma lo faccio anch'io, come un duello tra i due programmi principali, però dimentichiamo che magari chi vince con un distacco non altissimo, e chi perde comunque con milioni di telespettatori, quindi diciamo non è una sfida con un trionfatore e un perdente umiliato, ma il pubblico si divide e poi chiaramente si orienta maggiormente per uno dei programmi principali della serata. Beh, allora, l'abbiamo detto, dirige un settimanale che è TV Sorrisi e Canzoni, anche se ormai un settimanale è tale, ma avendo social, sito, ormai non c'è più la scadenza settimana per settimana, perché bisogna aggiornarlo. Minuto per minuto, ecco. Perché col sito ci siamo cacciati nei guai da soli, diciamo, esatto. Però è inevitabile. È così. Ma tu alle 10 del mattino sei lì che aspetti i dati Auditel per vedere com'è andata la sera prima, sì? Beh, certo, sì, è ovvio, fa parte del lavoro e poi fa parte un po' anche della passione, no? Vedere come sono andate le cose mi serve sia per capire quali sono gli argomenti su cui puntare, sia sul giornale che sul sito, e anche eventualmente cosa fare, cosa twittare, cosa mettere su Facebook, che sono mondi vicini ma diversi, e sì, anche per il gusto personale di vedere le variazioni e vedere dove si orienta il pubblico, perché ripeto, è importante che vince la serata, ma poi tu scopri che per esempio un programma come Made in Sud, di cui si parla pochissimo, è un programma che ha un suo pubblico forte, fedele, che fa oltre il 10%, e quindi il 10% per esempio di Made in Sud è un risultato clamoroso rispetto per esempio al 12% di forte della Carrà, che invece è un risultato deludente, no? Ci si è rimasti tutti un po' male per la Carrà, perché insomma ce la farò cantava, ma non è che ce l'ha fatta tanto, direi proprio di no, però lì anche qui noi ci siamo domandati cos'è successo, no? Allora escludiamo che si tratti di un problema della Carrà, perché comunque Raffaella c'ha anche una fan base fortissima, degna di un cantante da talent, no? Quindi non è quello. Penso che si tratti proprio dell'idea di chi mettere in concorso, perché in Italia non c'è questa cultura dello showman. Ci sono alcuni showman isolati come Fiorello, faccio un esempio, ma non c'è questa cultura di un artista completo che fa tutto in uno spettacolo, che canta, balla, imita eccetera, come per esempio faceva prima la Carrà. E sinceramente alla fine le esibizioni dei concorrenti di Forte sono un po' dei giganteschi balletti, che da sempre, questo in Italia, nei varietà, anche ai tempi d'oro del varietà, il momento del balletto era il momento debole del programma. No? E anche perché di Fiorello ne nasce uno, volerlo, esatto, andare a cercare non è proprio così facile. Soprattutto non emerge magari da un talent, ma è più facile trovarlo, come è successo proprio per Fiorello e per tanti altri, o nei villaggi turistici, sì, oppure nei teatri di provincia, nei piccoli cabaret, eccetera. Maria De Filippi, ne abbiamo parlato, scatena sempre reazioni forti, perché arrivano messaggi al 349-238-6666, c'è chi scrive: Maria De Filippi fa ascolti sulla popolazione di bassa cultura e ha super ospiti perché ha super soldi. Io devo dire che, ad esempio, la mia timeline di Twitter, che è molto varia come cultura, come provenienza, ha anche delle derivazioni abbastanza chic, sono tutti davanti a Maria De Filippi, quindi forse è più trasversale di quello che pensiamo. Sì, vedere Maria De Filippi come un fenomeno, a parte che in Italia c'è sempre questa incredibile contraddizione, che io non mi stanco mai di sottolineare, sull'aspetto negativo del termine popolare. Allora, popolare vuol dire che piace alla gente. In Inghilterra, faccio un esempio, pop è un aggettivo, una definizione nobile, nobilissima. I Beatles erano il pop, faccio proprio l'esempio più clamoroso. Oppure Madonna è il pop. E mentre in Italia si considera quello che è popolare, lo stesso, diciamo, la stessa cosa che un po' imputavano a Carlo Conti, no? Di essere troppo pop e quindi di piacere alla gente, diciamo, non particolarmente evoluta da certi punti di vista, mentre invece il pop significa che piace alla gente, e dentro la gente c'è tutto, perché non è che tu fai un programma solo per le fasce depresse dei telespettatori, fai un programma e soprattutto non raggiungi quelle cifre targettizzando, scusa il termine, insomma, comunque rivolgendoti col tuo programma a una popolazione emotivamente molto fragile, non so come dire. Certo. Quindi non mi spiace, non sono d'accordo col tuo ascoltatore, che poi abbia molti soldi, questo deriva semplicemente dal fatto che fa molti ascolti, cioè nessuno investe su una cosa che poi non produce dei ritorni, e meno che mai una TV commerciale. Direttore, io ti devo richiamare di nuovo nelle prossime puntate, perché ci sono un po' di argomenti che dobbiamo ancora toccare, perché ti devo chiedere le prossime volte, sappi che ti richiamo. Preparo, quindi, voglio sapere cosa pensi tu degli spoiler Blair, cioè di chi rovina le sorprese. Ecco. No, beh, se vuoi ti anticipo, ecco, che ne penso malissimo. Noi su Sorrisi, quando in qualche modo anticipiamo qualcosa, non di così clamoroso come è successo con Masterchef, ma insomma quando anticipiamo un po' gli sviluppi di qualche ufficio, mettiamo dei cartelli belli grandi e spieghiamo alla gente che se non vogliono sapere che succede non devono leggere, e comunque non scriviamo cose che rovinino la sorpresa. Giusto. D'altra parte, sulla vicenda di Striscia e di Masterchef, c'è anche da dire che il problema secondo me è più di Masterchef che non di Striscia, perché praticamente da quando è cominciato il programma si è sempre saputo prima il vincitore, a cominciare dal sito di Vanity qualche anno fa, e quindi lì scappò la manina e postarono quindi diciamo il problema sta nel fatto che probabilmente sicuramente è impossibile nel mondo di oggi mantenere un segreto per dei mesi. Hai ragione. E poi ti dovrò chiedere tante cose, tipo come si fa a fare ancora 60 pagine con i palinsesti che cambiano tutti i giorni. Ti devo chiedere molte cose, quindi ti devo richiamare, direttore. Va bene, ok. Voglio solo segnalare un'ultima cosa che è molto importante, perché domani ci sarà una giornata molto bella al Piccolo Teatro per ricordare Luca Ronconi, tutta una giornata di proiezioni, e in quest'ultimo numero di Sorrisi tu hai fatto il tuo editoriale proprio su Luca Ronconi, che io non sapevo è stato un tuo maestro. È una cosa molto molto bella. Io ho lavorato con lui per 4 anni, lavorato è una parola grossa, dicevo grosso modo in spettacoli che duravano 5-6 ore, dicevo il pranzo è servito, no? Cioè, proprio diciamo, l'ultimo della catena alimentare della compagnia, però ho fatto 4 anni con lui, anche in tournée, ho visto come lavorava, mi ha insegnato molte cose, ero un po' il suo coccolino perché ero un po' giovane, quindi lui vedeva insomma anche con tenerezza questo attore veramente cane che non avrebbe avuto futuro, e quindi mi ha insegnato prima di tutto a non fare l'attore e poi a vedere il mondo dello spettacolo e del teatro in particolar modo in una maniera originale e geniale, che era il suo modo di fare teatro. Quindi io ho dedicato a lui l'editoriale perché è stato un po' come se mi fosse morto un altro papà, diciamo, un papà diciamo artistico, insomma, intellettuale, ecco. Grazie al direttore di Sorrisi Aldo Vitali. Allora ti aspetto di nuovo, grazie per essere stato con noi. Grazie Marta, ciao, grazie a tutti. Grazie. A presto al direttore di Sorrisi e Canzoni. Noi adesso ci aggiorniamo su quello che sta succedendo su Strade e Autostrade, ma ci ritroviamo tra pochissimo ancora al Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Ci siamo quasi con l'uscita di un film che sta per arrivare prestissimo nei cinema italiani, però già ci sono manifesti dappertutto, servizi fotografici e non sui giornali, se ne parla in televisione, sono arrivate addirittura linee di make-up dedicate a questo personaggio che evidentemente anni, decenni, secoli dopo ci appassiona ancora, piace ancora, stimola ancora le fantasie delle ragazze di qualsiasi età. Di chi stiamo parlando? Beh, basta un pezzettino del film per capire. Beh, insomma, non vi dico niente. Valeria, facci sentire e indoviniamo insieme. Non per farti fretta, ma non hai molto tempo, Ella. Così va meglio? Sono di cristallo. E sono davvero comode. Ricorda, la magia avrà una sua durata. Non volete dirmi il vostro nome? Il mio nome è... All'ultimo rintocco della mezzanotte, l'incantesimo finirà. E tutto tornerà come prima. Cenerentola, stai cercando questa? Ci sarà una storia dietro che la spiega. Raccontamela. Beh, lo diceva il film, l'estratto del film Cenerentola, però bastava che sentir dire i rintocchi, subito il nostro immaginario torna a Cenerentola, il film diretto da Kenneth Branagh con questa bellissima Lily James che sicuramente avete visto in un sacco di manifesti per tutte le città. Appunto, il film sta per uscire, eppure la magia di Cenerentola nel 2015 è ancora viva. Per sapere come mai io ho chiamato un'amica, un po' perché insieme ci sentiamo sempre Cenerentole, un po' perché scrive di film, scrive di cinema su tante tante riviste, e poi io devo dirlo perché lei ha avuto un'idea geniale, lei è l'inventrice dei Cine Cocktail, cioè praticamente lei ha inventato un format che in tutti i festival del cinema si sposta, si beve, si chiacchiera, ha sempre degli ospiti favolosi. Mi fa molto piacere averla per la prima volta al Sabato del Villaggio. Buongiorno a Claudia Catalli. Buongiorno Claudia. Ciao a tutti, ciao Marta. Per la prima volta ci sentiamo in radio, ma noi in realtà ci troviamo nei festival appunto e cerchiamo, finite le lunghe giornate di lavoro, di ogni tanto trovare anche un momento per spettegolare un po' su questo cinema che se lo merita, anche perché ci piacciono molto questi temi femminili. Allora Claudia, mia massima esperta di temi femminili al cinema, certo, assolutamente. Ecco, facciamo un po' le femmine. Che cosa diciamo del fatto che questa Cenerentola nel 2015, intanto a te è piaciuto il film? Allora, a me è piaciuto molto, in generale io apprezzo molto il lavoro di Branagh, quindi partivo già avvantaggiata. Poi Cenerentola, quando ha la fata padrina che è Elena Bonham Carter e una matrigna strepitosa come Cate Blanchett, difficilmente è un film da perdere, insomma, bastano queste due attrici a renderlo prezioso. Poi, come dicevi tu Marta, effettivamente è una favola che tira, per così dire, dal 1950, quindi insomma, voglio dire, ci deve essere qualcosa di speciale, dato che, come dire, nel 2015 è molto facile sentirsi cenerentole da un punto di vista economico barra anche di desideri realizzati, però è molto complicato ritrovare l'incanto. Allora questa mattina ho chiesto a mia nipote di 3 anni perché le piacesse tanto Cenerentola e lei mi ha risposto una cosa semplicissima e geniale. Mi ha detto: perché alla fine si sposa con il principe. No, capito. Anni di femminismo buttati. Così, però è quello, in realtà è l'incanto del lieto fine, dell'idea che i sogni, appunto, ovviamente i desideri possono diventare realtà, e non solo, diventare realtà nel migliore dei modi, perché alla fine Cenerentola, sì, ok, d'accordo, pulisce pentole e fa tutto il giorno poverina in soffitta. Tuttavia si sposa il principe, o meglio il re, perché principe orfano, dunque. Ah, vabbè, l'è andata benissimo, diciamocelo. E poi mi pare che non abbia nemmeno la suocera, quindi va proprio alla grandissima. Anche se con un passato da matrigna come il suo, effettivamente diciamo che la suocera magari sarebbe stata anche soft nel suo caso. Ah beh, certo, rispetto hai ragione. Di Cenerentola in Cenerentola c'è un'altra aspirante Cenerentola che canta il brano italiano della colonna sonora, perché lo sappiamo, è un film Disney, come spesso accade, anzi come praticamente sempre accade nei film Disney, c'è una canzone portante che viene poi adattata in italiano per il pubblico italiano con degli artisti italiani. Succede anche in Cenerentola, la canzone viene cantata da Arisa, e io ad Arisa proprio ho chiesto che rapporto ha lei con Cenerentola e con questa Cenerentola che insegna la gentilezza, però è abbastanza volitiva. Sentiamo cosa ci ha risposto Arisa. Tante volte io mi sono sentita un po' Cenerentola, ma è anche un sottile, come dire, un sottile piacevole dispiacere, non so, un sottile dispiacere ma molto piacevole, nel senso che comunque a volte nel sacrificio, quando ti senti tutti contro, tu sviluppi una sorta di nobiltà d'animo, perché ti senti forte, vedi là, perché poi quando la cattiveria è solo diciamo una manifestazione palese di tanta infelicità, le persone infelici sono cattive, infatti anche la matrigna di Cenerentola a un certo punto dice: io ero innamorata di mio marito, avevo 2 figli, andava tutto bene, poi mio marito è morto, io lo amavo, no? E poi ho dovuto fare un matrimonio che insomma mi consentiva di andare avanti, di vivere, di tenere lo stesso tenore di vita, in pratica lo dico a parole mie, no? Quindi lei stessa era cattiva perché era infelice, e le persone buone in realtà sono persone molto come dire, a posto con se stesse, e capiscono la cattiveria degli altri, e in un certo senso la compatiscono bonariamente, e più capiscono gli altri più si rafforzano loro, quindi è una cosa bella, anzi è un dono, secondo me è un dono ricevere a volte delle ingiustizie, perché ti fortifica. Entra. Oh, che bell'azzurro. Smettila di blaterare. Oh, Ella, quasi dimenticavo. Rammenta, la magia avrà una sua durata. Quando sentirai l'eco dell'ultima campana, all'ultimo rintocco della mezzanotte, l'incantesimo terminerà. e tutto tornerà come era prima. A mezzanotte? A mezzanotte. È più che sufficiente. Allora va. Grazie, grazie. Oka, va! Arrivederci! Beh, Cenerentola va con la sua zucca trasformata in carrozza. Abbiamo anche in regia una Cenerentola, perché c'è Valeria Bernardi, abbiamo una regista donna, io sono sempre molto contenta quando c'è Valeria, che dice per lei Cenerentola è quella delle fiabe sonore con la cassettina, effettivamente veniamo da lì. Veniamo da lì. Claudia, io ti devo lanciare però una provocazione, perché qualcuno ha chiesto a Kenneth Branagh, che è venuto a Milano, se c'è un legame, senti un po' qua, siamo spericolati, tra Cenerentola e le 50 sfumature di grigio. E Kenneth Branagh non si è mica perso d'animo, perché Kenneth Branagh dice in fondo qualcosa c'è. Allora io chiedo a Valeria se ci può mandare questo Kenneth Branagh che ci spiega perché c'è un sottile legame. Well, I think that the you put your finger on Ma in un certo senso lei ha messo il dito proprio su quello che poi è, ha queste storie che possono essere, sono definite storie universali. La prima domanda che ci si pone è perché, cosa c'è, e questo è il punto fondamentale dell'attrazione nei confronti di chiunque. Per quello che mi riguarda ora, per me in questo momento, era soprattutto il personaggio di Cenerentola, un personaggio che si riteneva fosse una vittima passiva, una donna che era semplicemente in attesa dell'arrivo dell'uomo, del cavaliere, completamente rovesciata, completamente trasformata in un personaggio moderno. Questo grazie anche alle fantastiche performance dei due attori. Beh, Claudia, alla fine, secondo questa Cenerentola moderna di Kenneth Branagh, la verità è che sia la nuova Cenerentola che la protagonista di 50 sfumature di grigio, il principe azzurro se lo vanno a prendere. Non è male come visione? Non solo. Allora, uno ha il cavallo bianco famosissimo che conosciamo tutti, Christian Grey all'elicottero. Tra l'altro sono tutte e due, come dire, innamorati di una ragazza di basse / umili origini. Una con chiaramente una sorta di maggiolone, l'altra anche con il cavallo bianco, perché Branagh fa questa diciamo parità di diritti quantomeno equini, perché tutti e due hanno uno splendido parità di diritti bianco. Equini è poi, fantastica. A un certo punto è fantastico, perché lei entra, no, spoileriamo solo un piccolo pezzetto di scena, perché sul finale lo sappiamo che, voglio dire, vissero tutti felici e contenti, quindi forse questo è l'unico finale che effettivamente non c'è molto da svelare. Però c'è una scena in cui loro sono nel giardino segreto del principe e Cenerentola sale sull'altalena, si stringe con le braccia le funi, lui la guarda ed è subito 50 sfumature. È un attimo proprio. E lì è un attimo, sono dietro l'angolo le 50 sfumature. Le funi pronte, si guardano e poi vabbè, ovviamente c'è in rete, ma questo insomma i tuoi ascoltatori che tra l'altro appartengono, no, alla timeline che dicevi prima, molto chic, sì. Sì. Sanno perfettamente che su YouTube c'è già uno splendido video, chiaramente molto a parodia, che si chiama Cinderella After Midnight e ti fa vedere tutto quello che poteva succedere qualora, diciamo, non c'era da tornare alla zucca, alla carrozza zucca. Certo. È molto divertente perché c'è Cinderella e quindi Lily James dentro la stanza dei giochi di Christian Grey, quindi insomma quello è un video da vedere, ovviamente è molto parodico, però ci sono dei punti chiaramente di riferimento, adesso anche al di là degli scherzi, naturalmente parliamo di due prodotti molto diversi, però l'idea che l'emancipazione femminile, quindi che diciamo l'autonomia, la libertà di una ragazza passi attraverso l'amore di un uomo, c'è in entrambi i casi. Ecco, sta a noi stabilire se è un buon messaggio oppure no. O sta a noi cercare l'uomo per cui valga la pena, insomma, vabbè. Sì. Si apre in entrambi i casi, è o un re o un miliardario. Esatto, no? Esatto. Ma proprio... attuale questo messaggio, no? Ma guarda, non lo so, senti, questo lo lasceremo ai prossimi gossip che ci facciamo io e te, vabbè, poi metteremo anche a parte di tutto ciò i nostri ascoltatori. Sono molto molto molto contenta di aver avuto Claudia Catalli, che è una mia amica, ma come sentite è anche super super bravissima. Claudia, ti leggiamo in un sacco di posti, ma io voglio segnalare soprattutto il tuo account di Twitter @ Claudia Catalli, così ti tengono d'occhio dovunque vai, ma anche chiocciola Cine Cocktail, perché sono sempre delle belle occasioni per incontrare da vicino personaggi che vedremmo sempre un po' lontani, invece è proprio una bella idea. Claudia, ti posso richiamare? Ti vogliamo ancora a Sabato del Villaggio per parlare un po' di cinema, sì, anche di cose io da sono donne. Qui, mi fa un sacco piacere, tra l'altro diciamolo, non si dice mai insomma a chi conduce, però mi prendo questo piccolo spazio per dirlo, bravissima sei tu. Sembra un semplice scambio di convenevoli, però i nostri ascoltatori, che sono appunto chic, lo sanno meglio di me. Claudia, un abbraccio, quindi a presto a Claudia Catalli, grazie Claudia. Un abbraccio enorme, grazie a tutti, ciao Marta. Viva tutte le Cenerentole, noi ci ritroviamo tra poco. Il Sabato del Villaggio. Beh, una puntata del Sabato del Villaggio in cui per ora abbiamo parlato di televisione, di grandi top e di grandi flop, cercando di capire perché ci ha dato una mano il direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali. E poi con Claudia Catalli, voce bravissima del cinema, firma, che scrive su tante testate che potete trovare su Twitter all'account @ClaudiaCatalli, abbiamo parlato in maniera un po' spericolata anche di Cenerentola, perché abbiamo cercato di fare un parallelismo tra Cenerentola e 50 sfumature di grigio, ma ci ha autorizzato il regista di Cenerentola Disney, che è Kenneth Branagh, quindi l'abbiamo fatto. Solo che succede che dopo aver parlato di 50 sfumature di grigio, al 349-238-6666 arrivano degli sms che non posso leggere perché insomma siamo in fascia protetta. Ma com'è possibile che vi vengano in mente certe cose il sabato pomeriggio? Vabbè, questo è l'ora per i vostri sms. Invece, per chi avesse davanti uno smartphone e volesse così usare Twitter, il mio account è @MartaCagnola. Questo, a proposito di Twitter, è il momento della tecnologia. E come ormai sanno gli ascoltatori del Sabato del Villaggio, è il momento in cui il nostro Enrico Pagliarini si dà a grandi esperimenti. Io non so se questa volta ce l'abbiamo fatta, io ogni volta però scelgo una musica per introdurlo, e questa volta sono andata a cercare un vecchissimo brano che io stessa, quando ho scoperto quanti anni ha, mi sono sentita un po' male. Eccolo qua, chissà se qualcuno se lo ricorda. Intitolava 0337 e quindi avete capito che era il prefisso dei primi telefonini. Lei si chiamava Camilla ed era una canzone che aveva partecipato a Sanremo Giovani, e quando ho letto che era il 1996 ho detto oddio, ma sono quasi 20 anni che questa canzone, cioè è un ricordo veramente lontano. E quindi quasi 20 anni fa, 19 anni fa, c'era questa canzone che parlava dei primi telefonini, appunto bastava dire 0337 e si capiva che si stava parlando di un telefono cellulare. Adesso i prefissi sono tantissimi, 0337 non esiste più, chissà come sono i cellulari di oggi. Io voglio chiedere tutte le novità, perché è stato a Barcellona a scoprirle, a Enrico Pagliarini, e voglio capire se Enrico Pagliarini c'è. Enrico, ci sei? Buongiorno, sì, sono qua. Non ci posso credere, ma lo sentiamo davvero Enrico Pagliarini? Sono qua, però non sono qua, sono là. No, allora, quindi... perché io sto parlando con Enrico Pagliarini come se fosse davanti a me in studio. Sentite, non è al telefono. Ma che cosa stiamo sperimentando? Ma tu sei in aperta campagna. Quasi. Allora, diciamo che da tempo tutte le radio del mondo possono fare collegamenti in remoto con una buona qualità. Noi stiamo sperimentando in questi mesi il 4G. Gli ascoltatori avranno sentito citare questa tecnologia. 4G... forse la caratteristica più interessante, sia per chi naviga in internet ma anche per chi fa radio come noi, è che ha una latenza molto bassa. Cioè latenza cosa vuol dire? Cioè il ritardo. Infatti quindi, sembra che stiamo parlando in tempo reale, in realtà un piccolo ritardo c'è. Sì, vabbè, è praticamente impercettibile. Ma infatti, cioè, ci stiamo facendo un botta e risposta, io non... incredibile. Sì. Allora, tu hai citato il Barcellona, dove c'è stato il Mobile World Congress questa settimana. A proposito di 4G, si comincia già a parlare di 5G, ma è una cosa che vedremo nel 2020, quindi abbiamo tempo per riparlarne, diciamo così. Cosa c'era di nuovo allora? Sì, perché allora, che cosa dobbiamo aspettarci? Non è già stato inventato tutto, no? Sì, più o meno sì. Allora, si è parlato moltissimo di oggetti da indossare. Si è parlato molto anche di realtà virtuale, ma di questo parleremo magari in un'altra occasione. Oggi volevamo parlare di smartphone. In effetti, se guardiamo al panorama degli smartphone, non ci sono state tantissime novità presentate. La novità più interessante, c'era tantissima attesa, è stato il iGalaxy S6 di Samsung, che sono stati presentati una settimana fa oramai, perché hanno fatto la presentazione il giorno prima dell'inizio del Mobile World Congress, la domenica, quindi potremmo dire sono già cellulari vecchi, perché è già passata una settimana. Una settimana, sì. Allora, devo dire che l'S6 normale è una copia dell'iPhone. Proprio l'hanno preso, hanno detto vabbè, fatelo più o meno uguale, e in effetti gli è riuscito più o meno uguale. Sarà contenta la Apple? Vedremo che cosa diranno. No, una cosa interessante invece, quando i designer fanno cose originali, va loro riconosciuto. Il secondo telefono che è stato presentato da Samsung, l'S6 Edge, Edge è il bordo del telefono, perché si insiste sul bordo? Perché questo è un design sicuramente molto originale, il display, quindi lo schermo, si flette sui bordi, quindi il vetro è piegato con un processo produttivo tra l'altro molto complicato, quindi alcuni dicono non ne vedremo tantissimi perché costa molto produrlo, stiamo parlando di telefoni da 800-900 euro, quindi poi vedremo. Beh, sì. Quindi, quando eh sì, non è che costano poco. Vedremo poi quando usciranno i listini. Stiamo parlando di prodotti che usciranno sul mercato anche in Italia, perché noi siamo uno dei 20 paesi dai quali Samsung inizierà la vendita. Li vedremo dal 10 di aprile e sapremo anche quanto costeranno. Comunque questo Edge, che è stato ripreso dal design del Note Edge, è sicuramente un prodotto molto originale. Stiamo parlando di prodotti della fascia alta del mercato, dove sostanzialmente c'è da un lato iPhone con il suo sistema operativo e dall'altro sostanzialmente Android sulla fascia alta del mercato. Perché va detto, allora, oramai quasi tutti i telefoni, se li guardiamo un po' da lontano, sono sostanzialmente molto simili gli uni con gli altri, fanno più o meno tutti le stesse cose. La grossa differenza è il software, quindi da un lato c'è iOS nella parte alta del mercato, quindi con iPhone, dall'altra Android con prodotti di fascia alta che sono l'attuale Samsung S5, l'LG G3, il Sony Xperia Z3, l'HTC M8 che diventerà presto M9 perché anche questo è stato presentato a Barcellona. Però stiamo parlando di prodotti che hanno un costo non indifferente, perché nella migliore delle ipotesi parliamo di una fascia tra i 400 e i 500 euro, ma molto spesso, visto che oramai abbiamo bisogno di molta memoria, abbiamo bisogno di performance dei processori piuttosto importanti, allora stiamo parlando di prodotti che costano 600, 700, 800 euro. Quindi primo consiglio, metteteci un mesetto prima di fare l'acquisto per fare la scelta giusta, documentatevi, parlate. Certo è che una delle grandi scelte da fare è: vado su iPhone con iOS o vado su Android? Ecco, perché io ti posso dire che, detto tra noi, io ti faccio la domanda un po' ingenua, molti comprano l'iPhone perché è uno status symbol, invece sì, forse bisogna anche valutare altre cose, non lo so, perché è una spesa importante. Sì, sì, è una spesa importante, allora diciamo che a quel livello l'80-90% delle funzionalità sono sostanzialmente molto simili. Dopodiché la valutazione sul sistema operativo, io sono tra quelli che ritiene ancora oggi iOS un sistema operativo superiore, per tantissime cose ci metteremo mezz'ora almeno a elencarle, però ci sono tante altre persone che ritengono invece superiore iOS per la libertà, per l'apertura, che poi da un certo punto di vista crea anche problemi di sicurezza, di aggiornamento, perché sull'aggiornamento va speso un 30 secondi. Bisogna stare attenti, sia iOS di Apple che Windows con Windows Phone rilasciano aggiornamenti in modo veloce. Allora, per quanto riguarda Android, a meno che si acquisti un Nexus, che è il telefono di Google, allora per gli aggiornamenti dipendiamo dai produttori dei telefoni, quindi dobbiamo aspettare che Google rilasci l'aggiornamento, poi vari Samsung, HTC, LG, Sony, bla bla bla, facciano il loro aggiornamento e lo rilasciano sui telefoni. L'aggiornamento è molto importante perché un pochettino ci apre a nuove o applicazioni o a nuove possibilità dei sistemi operativi, a nuove funzioni dei sistemi operativi, ma è molto importante anche per motivi di sicurezza. E quindi uno dei consigli che spesso si danno è attenzione a non comprare, soprattutto nel mondo Android, telefoni di marche pressoché sconosciute. Sicuramente in quei casi gli aggiornamenti saranno più lenti, non è detto che non ci saranno, però saranno più lenti, e questo può anche essere un problema. Adesso però ci dobbiamo fermare, quindi ma che è fantastico, perché tu sei lì tranquillo in campagna e fai tutto tu, e guarda, infatti ero lì, io sono sicura quando hai detto mancano 30 secondi che è lì davanti col cronometro come se fossi in studio. Straordinario. Tanto allora adesso diamo le indicazioni per il traffico anche per chi è dalle tue parti in Emilia, e poi ci ritroviamo tra pochissimo ancora con Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Intanto Enrico, gli ascoltatori ci scrivono anche quando ci ascoltano in dub. Ah, sì, in dub con la radio digitale, sono molto la contenta. Digital radio. Io consiglio a tutti di la prossima auto che acquistate, acquistatela con la digital radio. Se non vi mettono la digital radio, e anzi dove la dovrebbero mettere gratis, non comprate la macchina. Cambiate modello, anzi cambiate proprio marca. Enrico, abbiamo ancora due minuti per tornare sull'argomento telefonini e novità. Sì, smartphone. Dunque, una cosa per la fascia medio-bassa del mercato, per chi o non ha i soldi oppure non li vuole spendere. No, anche perché c'è soldi. Chi ci scrive al 349-238-6666, Ulisse, non capisco perché devo comprare uno smartphone a 700-800 euro quando da 100-300 euro mi prendo un qualsiasi e poi mi dice altre marche. Qua sicuramente i telefoni, sui telefoni che costano molto c'è un mix di marketing, design, su quello non c'è dubbio, ma questo vale per tutti i prodotti. Però i telefoni di fascia alta hanno caratteristiche sicuramente superiori a quelli da 200-300 euro, non c'è dubbio. Questi sono falsi miti di chi poi non prova tutti i telefoni. Comunque, allora, fascia medio-bassa del mercato, una cosa interessante per dirla in un minuto è Windows Phone. Windows Phone sta puntando molto a questa fascia di mercato, sicuramente su alcuni prodotti Android, se noi lo usiamo con molta energia, facciamo usiamo molte applicazioni, multitasking eccetera eccetera, potremmo rimanere un po' delusi. Allora Windows Phone invece è un sistema operativo molto leggero, fluido, anche su prodotti di fascia medio-bassa, con tutte le caratteristiche che servono alla maggior parte degli utenti. Quindi sulla fascia medio-bassa parliamo di 100-200 euro grosso modo, compriamo un Windows Phone con tranquillità. Sì, è vero che forse non abbiamo tutte le applicazioni di Android o di iOS, ma il 90% delle applicazioni più popolari esiste ormai anche per Windows Phone, e quindi sicuramente quella è una buona scelta. Tra l'altro in Italia molti giovani stanno scegliendo questo tipo di sistema operativo anche per questo motivo, perché è molto fluido, molto veloce, molto semplice, quindi buone performance anche su prodotti da 100-150 euro. Fluido, veloce, semplice come Enrico Pagliarini. Grazie Enrico per essere stato grazie con noi, ma il prossimo sabato ciao. Ti voglio in studio. Sì, sono lì. A presto Enrico, adesso dobbiamo parlare di cinema. Questa è Eloise, mia nipote. Cosa fai? Prepari pancake. Apparecchia, per favore. Io e mia moglie l'abbiamo cresciuta dopo la morte di nostra figlia. Poi la vita ci ha messo ancora alla prova e ora se n'è andata anche sua nonna. È un'auto da scarpa da tennis. Devi chiamare l'altra nonna. L'ultima persona che vorrei avere intorno è lei. Oddio. Ciao ragazzi. Ciao Eloise. Dobbiamo pensare a un affidamento congiunto. Non se ne parla. Lei ha un padre. Tu non hai capito niente di tuo figlio. È un drogato. E tu un ubriacone. Ok, grazie. E come sempre a questo punto del Sabato del Villaggio, cosa esce al cinema questo fine settimana? Beh, lo chiediamo al nostro Franco D'Assisti. Abbiamo già sentito un estratto di un film. Franco, buongiorno, di cosa si tratta? Ciao Marta, ciao, ben ritrovata. Allora, Back or White, sembra quasi una scelta da dover fare, il titolo del film che riporta sugli schermi italiani Kevin Costner, già star super conclamata, diciamo così, una ventina d'anni fa. poi pian piano uno rimane star tutta la vita, ma insomma diciamo che non è più tanto il suo momento, ma è uno che continua ogni tanto a darci la sua lettura, soprattutto con un occhio sempre vicino ai temi dei diritti civili, ai temi dell'uguaglianza. Lo ha sempre fatto, è proprio il tratto che ha distinto la sua carriera come regista. In questo caso non è regista, ma sembra quasi che lo sia. Il regista vero è Mike Binder. È una storia di famiglia, un uomo, un avvocato di successo, interpretato dallo stesso Costner, che si ritrova vedovo e con una nipotina senza madre, perché aveva già perso sua figlia tanti anni prima, proprio al momento del parto. Questa bambina era nata dall'unione con un ragazzo di colore che nel frattempo ha percorso strade sbagliate, è diventato tossicodipendente e ora c'è il tema, morta la nonna, diciamo così, la famiglia di lui, la famiglia del padre, che vive nei sobborghi, nei neri della città, chiede per un fatto di legame di sangue che la bambina, che ormai è grandicella, i suoi 6-7 anni, possa essere cresciuta con la nonna paterna. E quindi siamo di fronte a un film, a una dramedy, come viene detto, cioè un dramma commedia con personaggi che spingono molto sulla commedia e con anche però momenti proprio di tensione vera e propria. Beh, un tema su cui si può discutere e riflettere, ma c'è un altro film con temi molto forti questa settimana. Beh, assolutamente, immagino tutti riferirsi a The Search, il film di Michel Hazanavicius, che con The Artist fece il botto agli Oscar un paio, due, tre stagioni fa, e che stavolta, film passato tra l'altro in concorso al Festival di Cannes, racconta la seconda guerra cecena, fine anni 90, una guerra dimenticata, forse una delle più dimenticate dei tempi recenti, e lo fa con il suo stile, uno stile molto, molto narrativo, anche molto esplicito. Ecco, è un film anche qui con valori civili molto forti da affermare, che però in termini proprio di ragionamento filmico e soprattutto di montaggio, di taglio, di velocità, di capacità, di ritmo, pecca un pochino. Mi pare di aver capito che questo fine settimana non ci siano uscite imperdibili per la famiglia, ma per chi ama il cinema italiano sì. Ne abbiamo parlato lo scorso fine settimana proprio con il regista Sergio Castellitto, che è venuto a trovarci al Sabato del Villaggio. Esce Nessuno si salva da solo. Nessuno si salva da solo, ottima, ottima prova ancora di Sergio Castellitto da regista, ma questo ormai non ci sorprende più. Una storia anche qui di famiglia, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna Galliena, Massimo Bonetti, insomma c'è come sempre un cast abbastanza importante, una regia riuscita che riesce a giocare anche sui toni in certi momenti, anche qui quasi da commedia, per poi però stare sul dramma un po' più esistenziale in certi altri momenti. Per concludere, qualche segnalazione dalla Rosa Purpurea, che come sempre torna dopo il GR delle 18? Parleremo di questi, di altri film anche che escono in sala in questo fine settimana, come Super Fast e Super Furious, oppure come Focus, Niente come sembra, ma soprattutto avremo ospite Renzo Arbore, perché dovremo raccontare la lavorazione di un film, uno dei suoi due film da regista, ma lui spiegherà perché ne ha fatti solo due nell'intervista, e Il Papocchio, mi sto riferendo a questo, che è stato il suo primo film, che ebbe vicissitudini clamorose, fu censurato dal Vaticano, eccetera, ebbe lo stesso un incasso importantissimo, vinse il biglietto d'oro e adesso esce con un bellissimo doppio DVD con tantissime scene tagliate, eccetera, l'occasione per rivivere la lavorazione pazzesca di quel film dentro la reggia di Caserta, che era diventata una sorta di bivacco per Arbore, Benigni e compagnia bella. Immaginatevi cosa deve essere stato vivere quelle settimane dentro la reggia di Caserta con Benigni che schiacciava un pisolino sul letto della regina, ecco, questo tanto per darvi l'idea. Quindi Renzo Arbore sarà con noi fra poco alle 18 alla Rosa Purpurea. Il Sabato del Villaggio. E ancora buongiorno, dopo il giornale radio delle 16 torna il nostro Sabato del Villaggio, la seconda ora della nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. E poi vi ricordo, nella terza ora, dalle 17 alle 18, l'appuntamento con RadioTube, con Daniele Bellasio, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ma cosa succederà nella seconda ora del Sabato del Villaggio? Beh, intanto appunto, moda. Milano è stata invasa dalle sfilate, ma cosa dobbiamo sapere della moda? Cosa significa, cosa rappresenta la moda oggi? La nuova normalità, ma anche i viaggi con i bambini, nel nostro spazio dedicato alle nuove tendenze. Un fenomeno nato su YouTube che ora vive il suo momento tra TV e cinema. I ragazzi sono pazzi di lui, incontreremo Frank Matano. Ma prima, una serie TV inconfondibile, partiamo intanto da un suo fan scatenato. Eccolo qua. Una campagna di formazione politica individuando un numero fisso di persone, portandovi gli strumenti tradizionali della formazione politica, ma anche le serie TV americane. Hai capito bene come dovrai comportarti? E se lo stessi al gioco? Ti escluderemo dal branco e ti guarderemo morire in solitudine. È così che si divora una balena. Un morso alla volta. Dare e avere. Benvenuti a Washington. House of Cards, avete ovviamente riconosciuto il presidente del Consiglio Matteo Renzi, che aveva proposto di utilizzare le serie televisive come scuola politica, come parte della formazione politica. È tornato House of Cards, è tornato e ha ripetuto il successo che lo caratterizza in tutte queste stagioni. Cerchiamo di andare alle fonti di questo successo con un esperto di storytelling, come possiamo dire, la narrazione applicata ad altri ambiti della vita, come ad esempio la politica. Dicevo, l'esperto di storytelling Andrea Fontana. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Noi abbiamo già chiamato Andrea Fontana per parlare di House of Cards, perché Andrea Fontana è espertissimo di House of Cards, è una grossa parte anche del volume Siamo tutti storyteller, dalla fiction americana alla politica, che Andrea ha scritto con Esther Mieli. Io ti faccio subito la domanda da 10 milioni di dollari: perché si rinnova sempre secondo te questo successo di House of Cards? Perché in House of Cards ci sono tutti gli elementi che ci portano via, ci fanno sognare. Soprattutto il meccanismo, credo, più interessante è quello della complicità, nel senso che se guardiamo quello che avviene in questa fiction, tutti i protagonisti complottano fra di loro, ci sono mille giochi di potere in corso, ma nessuno sa esattamente che cosa succederà, soltanto noi spettatori lo sappiamo, perché molto spesso, tra l'altro, Frank Underwood ammicca, no? Supera la parete del grande schermo e ammicca a noi dicendoci quello che farà o quello che non farà, e quindi questo è un meccanismo molto forte, molto potente in termini narrativi. Questo Frank Underwood potente, spietato, che da un rischio di caduta, perché la sua carriera politica rischia di avere una battuta d'arresto, non si fa fermare da nulla, comincia, nonostante tutte le premesse, un'ascesa incredibile fino alla Casa Bianca. Tra l'altro l'autore del libro da cui è stato tratto House of Cards è Sir Michael Dobbs, politico conservatore inglese, membro dello staff di Margaret Thatcher. Ebbene, questo libro ha influenzato, lo sentivamo nelle parole di Matteo Renzi, la politica. E noi abbiamo chiesto col cacciatore di libri, e ne approfitto per salutare Sandra Tedesco, che non sta tanto bene, quindi questa settimana non sarà con noi, ma non possiamo non avere un assaggio del cacciatore di libri. Nel cacciatore di libri abbiamo chiesto a Michael Dobbs, l'autore del libro da cui è stato tratto House of Cards, come l'hanno presa i politici veri, perché appunto qualcuno si ispira e suggerisce non di copiare Frank Underwood, ma di capire i meccanismi che stanno dietro questa serie televisiva nella politica attiva. Invece i politici inglesi come l'hanno presa? Sentiamo cosa ha detto Michael Dobbs. John Major, il primo ministro che ha preso il posto di Margaret Thatcher, è stato così gentile da dirmi che il mio libro aveva avuto sul suo lavoro lo stesso effetto che Dracula aveva fatto sul babysitting. Dopo averlo scritto, mi aspettavo che mi avrebbero chiuso le porte in faccia, perché nessuno voleva che si scrivessero i retroscena della politica. In realtà, però, non stavo raccontando i segreti di qualcuno in particolare. Stavo stavo scrivendo i segreti di tutti. La verità è che i politici amano i riflettori, adorano il mondo dello spettacolo, vogliono farne parte. E quando videro che questo libro e questa serie televisiva stavano diventando così popolari, molti vennero da me a chiedermi: Francis Urquhart, sono io, vero? È ispirato a me. That's me, isn't it? He's me, based on me. E le uniche persone che ho deluso sono state quelle a cui ho dovuto dire: no, non sei tu. I'm sorry, no, it's not you. Se conoscete la natura dei politici, non vi stupite se vi dico che molti poi sono venuti a darmi delle idee, dicendomi: sarebbe una grande sceneggiatura per un libro, basta che fai in modo che ci sia dentro io. Il potere è come il mercato immobiliare, quello che conta davvero è la posizione. Più sei vicino al centro, più alto sarà il valore della proprietà. Tra qualche secolo, quando la gente vedrà queste riprese, ti vedrà sorridere al bordo dell'inquadratura. Abbiamo sentito Michael Dobbs per quanto riguarda il successo di House of Cards tra i politici, che a questo punto sognano di essere citati, menzionati sotto mentite spoglie nella narrazione. Però Andrea, abbiamo con noi Andrea Fontana, esperto di storytelling. Il successo va al di là degli appassionati di politica, forse perché questi meccanismi poi si ritrovano nella vita di tutti i giorni, o perlomeno vorremmo magari imparare a essere a volte cattivelli come Frank Underwood o come la moglie Claire. Sicuramente è così. La grandezza di questa fiction come political drama è che poi parla, al di là dei temi politici, parla dei meccanismi della vita di tutti noi, delle nostre carriere lavorative, delle nostre carriere affettive, delle nostre carriere professionali, no? Alla fine è la grande metafora della vita di tutti noi, dove da una parte dobbiamo salire, no? Perché le prime due serie sicuramente di House of Cards rappresentano la salita, l'ascesa verso una carriera, in questo caso politica, ma naturalmente noi possiamo rispecchiare tantissime altre tipi di carriera. E poi la terza, a quanto pare, sembrerebbe che richiami il fatto di dover mantenere il potere raggiunto o comunque le basi della carriera conquistata. E pensiamo appunto alle nostre vite, quando raggiungiamo degli obiettivi grandi o piccoli, professionali, affettivi, familiari, poi dobbiamo mantenere quegli obiettivi raggiunti. E quindi credo proprio che gli autori di questa serie abbiano messo in campo tutti gli stratagemmi dello storytelling per farci identificare completamente nella serie stessa. Sono d'accordo. Ti chiedo un'ultima cosa, molto flash. Matteo Renzi, che consigliava di guardare le serie TV per imparare alcuni meccanismi e come formazione politica, ma davvero si usano, si possono usare? Assolutamente sì, vengono usati, ovviamente non soltanto House of Cards, ma tantissime altre serie oggi, perché le serie hanno all'interno una serie di meccanismi che aiutano a capire meglio come gestire la comunicazione, come gestire le relazioni, come gestire la costruzione anche del consenso, e sono molto profonde e sono usate nella formazione politica come sistemi per approfondire una serie di dinamiche pubbliche, della comunicazione pubblica e della comunicazione privata. E noi che pensavamo che fosse solo televisione. Grazie ad Andrea Fontana. Io ricordo, esperto di storytelling, ma in particolare per quanto riguarda House of Cards, io ricordo Siamo tutti storyteller, dalle fiction americane alla politica. Giulio Perrone editore, Andrea Fontana l'ha scritto con Ester Mieli. Grazie per essere stato con noi, buon sabato. Grazie a voi. Il sabato del villaggio. Ve l'ho anticipato, c'è un argomento di cui io sono molto curiosa, ma ne parliamo pochissimo qua al Sabato del Villaggio. Vorrei introdurlo con una canzone che a me piace moltissimo. Allora, looking good e feeling fine, cioè essere belli, avere un bell'aspetto, sentirsi bene, fashion, moda. Milano è stata invasa da, era veramente, posso dirlo, anche un po' demotivante, demoralizzante andare in giro e vedere tutte queste modelle bellissime in giro per Milano, un sacco di traffico come sempre quando si parla di moda. Noi al Sole 24 Ore abbiamo un'esperta, super esperta, io sono molto contenta di averla perché noi abbiamo passato tanti sabati insieme, ma veramente tanti sabati insieme con il leggendario English 24, la trasmissione che non abbiamo mai dimenticato. Buon sabato e buongiorno a Giulia Crivelli. Buon pomeriggio carissima Marta, buon pomeriggio a tutti. Che bello risentirti il sabato pomeriggio, Giulia, una botta di nostalgia, quanti anni abbiamo passato il sabato insieme. Però l'ho detto, chi legge il Sole 24 Ore, chi ti segue anche sui social sa che tu sei una super super super esperta di moda. Io ti faccio subito la domanda da 10 milioni di dollari, ma le sfilate al giorno d'oggi, cioè queste settimane della moda, Milano, Parigi, hanno ancora un senso, visto che siamo invasi da tutto sui social, hanno ancora senso? Guarda, ti confesso che io lo chiedo in modo quasi ossessivo a tutti sempre e la risposta è sempre la stessa. Nessuno ha ancora trovato un modo migliore per sintetizzare in 12 minuti, e ricordo che è uno show a tutti gli effetti, come se fosse un piccolo spettacolo teatrale che può costare da un minimo di 100.000 a un massimo di anche oltre il milione di euro se parliamo di show. Ah, di... però c'è, cioè, un minimo di 100.000 euro costa una sfilata? Di 12 minuti, massimo 15. E in quei 12 minuti si concentra un po' la visione della stagione. Secondo me la cosa più interessante è che poi in realtà molte delle cose che si vedono in passerella non le vedremo mai nei negozi, perché serve per proprio... Per chiederti una cosa, sì. Allora, c'è stato Milano Moda Donna dal 25 febbraio al 2 marzo e tu hai visto le sfilate di quello che potremmo vedere nell'autunno-inverno 2015-2016. Esatto, una specie di salto nel futuro, perché la moda è sempre 1/2 stagioni avanti. Per esempio le fiere del tessile, cioè le fiere delle materie prime, sono addirittura, adesso vedremo i tessuti della primavera-estate 2016. Quindi è sicuramente un esercizio, se vuoi, proprio anche quasi divinatorio. E la cosa è che è una maratona che dura più di 4 settimane e in totale, se contiamo New York, Londra, Milano e ora Parigi, che ha le battute finali, tu calcola che sono state organizzate, prima facevo un conto a memoria, 600 sfilate e 1 migliaio di presentazioni. Quindi anche quando si dice qual è il trend di stagione mi viene un po' da ridere, perché fare una sintesi è quasi impossibile, anche perché in questo tra l'altro i social network e internet hanno avuto un ruolo incredibile, cioè di amplificare ognuno nel nostro piccolo quello che ci è piaciuto. Fare una sintesi diventa impossibile anche per il più bravo giornalista, il più bravo storico della moda. Ma io immagino che quando tu poi vai alle sfilate, poi magari incontri gli amici e gli amici ti chiedono: ah, ma cosa va di moda? Cosa mi devo comprare? Immagino lo facciano tutti. Esatto, e io, guarda, riflettevo proprio su questo. E secondo me la vera, quando si dice democratizzazione della moda, non è tanto il fatto che appunto i social network rendono disponibili in tempo reale qualsiasi cosa. C'era Tom Ford che fino alla settimana, all'ultima stagione, vietava i telefonini nel suo show. Adesso si è arreso, ha detto fate quello che volete, ma mettete instagrammate, whatsappate, fate quello che volete, perché ha capito che non è una cosa che si può frenare. In realtà l'accesso alla moda, e questa è la cosa che dicevi tu, looking good, feeling well o feeling good, è che possiamo scegliere, e secondo me la vera democratizzazione, certo la stanno continuando a fare i social network, ma l'hanno fatta le grandi catene come Zara e Inditex, che non sono nate ieri, non sono nate 10 anni fa, sono nate all'inizio degli anni 40-50 e hanno veramente, alcuni li accusano un po' di copiare, cioè di vedere adesso la sfilata e di riuscire a mandare in negozio subito e prima dei marchi le novità, però veramente loro ci rendono disponibili una quantità di scelta, di abbigliamento, di prodotti, e tutte noi barra uomini, perché ricordo che gli uomini nell'ultimo anno il prêt-à-porter uomo è cresciuto più, le vendite di prêt-à-porter uomo sono cresciute più di quelle da donna, quindi gli uomini si stanno appassionando alla moda indipendentemente che siano metrosexual o no, e quindi ognuno può scegliere, può davvero scegliere, e io spero sentirsi bene. La moda secondo me deve servire a questo, una piccolissima, non paragonabile ad altri tipi di realizzazione, però una piccola soddisfazione personale ci fa sentire un po' meglio. Sì, ogni tanto qualche gratificazione, poi magari non hai sempre il pezzo di Valentino, ne hai uno e ne hai 100 di Zara, ma fa niente, va bene lo stesso. Ma certo, ma penso anche all'operazione che ha fatto H&M coinvolgendo questi grandissimi designer e rendendo disponibili, certo non sarà mai il pezzo fatto a mano che vediamo nelle passerelle di alta moda di Parigi durante la sfilata di Valentino di luglio o di gennaio, però lo spirito di Valentino c'è, E quindi, soprattutto quando si è un po' più giovani, oppure semplicemente si è maturata l'idea che il budget per la moda deve essere ragionevole, questo sistema è fantastico. Poi ben venga tutti i social network, postare, instagrammare, far vedere subito, ma all'insegna di una grande autonomia di scelta personale, con mai più schiavi della moda, questo mi piacerebbe. Mi piace, tra l'altro poi ne parleremo anche tra poco con Maria Luisa Pezzali, perché anche sui consumi ne parleremo, vi anticipo già, vi faccio uno spoiler, visto che prima abbiamo parlato di spoiler, di queste anticipazioni, che continueremo a parlarne anche con Maria Luisa Pezzali. Però Giulia, tu hai detto instagrammare, postare, social network. Adesso c'è il fenomeno delle fashion blogger, ce ne sono alcune come Chiara Ferragni, che ormai è più che una pop star, su tutte le copertine. Io so che anche chi non è appassionato di moda, chi non segue niente, il suo nome l'avrà sentito. Com'è questo fenomeno? Tu mi stuzzichi un po' su questo, nel senso che io ho grandissima stima per Chiara Ferragni, è sicuramente una ragazza ambiziosissima, piena di idee, piena di voglia di fare, e probabilmente fino a un certo punto anche in buona fede. Io credo che lei alle sfilate non dovrebbe sedere tra i commentatori, quindi tra i giornalisti, diciamo, ma tra i buyer, cioè tra quelli che decidono che cosa finisce nei negozi, perché lei fa questo, lei sul suo blog dà dei veri e propri consigli di acquisto, che sono una cosa molto diversa da una critica fashion, che poi uno può dire, vabbè, a te piace, a me invece non piace, però sono due cose veramente diverse. Far un po' rendere più grigio questo confine, secondo me non fa bene a nessuno, perché ci si illude che sia il suo gusto, in realtà non è solo esattamente il suo gusto, ci sono dietro degli interessi che sono assolutamente legittimi, come quelli dei buyer che decidono di avere nel negozio un marchio piuttosto un altro perché vende di più. Ma quindi spostano secondo te il gusto soprattutto delle ragazze, ma non solo, perché le fashion blogger vengono seguite anche dalle signore? Sì, secondo me inevitabilmente sì, e ripeto, io nel mio mondo ideale vorrei che tutte riuscissimo, certo con l'aiuto di chi pensiamo abbia più esperienza, veda più cose di noi, e quindi esattamente come la nostra Alessandra Tedesco, che legge 10.000 libri più di me, di te, ci può dare dei consigli, però poi manteniamo una certa autonomia, cioè non seguiamo pedissequamente i consigli di nessuno, anche perché poi ognuna di noi e ognuno di noi uomo ha un fisico diverso, quindi non è detto che una cosa che sta bene a qualcuno stia bene a un altro. L'unica cosa che veramente ci tengo a dire, visto che insomma abbiamo il privilegio al Sole 24 Ore di occuparci della moda anche da un punto di vista economico, è quanto sia importante per l'immagine dell'Italia, è un po' veramente l'ambasciatore dell'Italia, di quello che di bello c'è in Italia, e poi ha una potenza economica incredibile. Basti pensare, sono dati proprio che abbiamo pubblicato pochi giorni fa, che nel 2014 sappiamo che l'Italia forse è cresciuta di uno 0, e il sistema tessile abbigliamento, e non parliamo nemmeno delle scarpe, degli occhiali, degli accessori, della pelle, è cresciuto del 3,3 a un totale di 52 miliardi, quindi sono cifre importanti dietro le quali ci sono migliaia di aziende che lavorano sul bottone, poi sul pizzo e poi sulla modellistica, quindi un mondo per me è super affascinante. Sì, tutt'altro che vacuo e che futile, che insomma, esatto. Come dice sempre il storico presidente della Camera della Moda di Milano, Mario Boselli, le sfilate sono proprio la punta dell'iceberg. Sotto c'è un mondo di persone appassionate, qualsiasi cosa facciano. Poi abbiamo l'esempio, insomma, forse lo sforzo più grande per dare l'idea della grande dignità che c'è nel lavoro della filiera del tessile moda, lo sta facendo Cucinelli, no? Di cui tutti parlano, si è appena finito anche su questo magazine del lusso che si chiama The Rake, che è un po' il punto di approdo di tutti, e lui sta cercando di far passare quest'idea: lavorate nella moda a qualsiasi livello perché è bello, perché è appassionante, perché il fare forse non è il mestiere più redditizio del mondo, però anche tutte le cose che dite voi o che dice Maria Luisa Pezzali a essere avere, forse abbiamo un po' superato quest'idea che il denaro è tutto per misurare la soddisfazione. Che bello, Giulia. Ti posso chiedere un'ultima cosa? Siccome dicevamo Alessandra Tedesco, che appunto saluto di nuovo perché questa settimana non siamo inossidabili, si è ammalata Alessandra, legge 10.000 libri e ci dà un suo punto di vista autorevole e informato. Tu hai visto chissà quante centinaia, migliaia di sfilate, ma c'è ancora qualcosa che ti stupisce? Sempre, sempre, tutte le delle volte. Io ho fatto soprattutto il giro degli showroom a vedere i nuovi tessuti, queste nuove, perché poi essendo la stagione, appunto, come dicevi, autunno-inverno, è molto ricca dei tessuti, ricca nelle maglierie, ricca nei pellami, e tu dici: ma come hanno fatto di nuovo a inventarsi qualche cosa di diverso? C'è qualche cosa di veramente di miracoloso. E quindi credimi, al di là del momento magari economico negativo, che inevitabilmente incide anche sulla creatività dei singoli, non ho mai visto una stagione uguale all'altra. Poi noi abbiamo un po' questa passione di criticarci, però poi se parli con le persone che vengono a Milano e magari arrivano da Londra a New York e sono in partenza per Parigi, ah, però quello che abbiamo visto a Milano, ah, che bello, mi riempi di ottimismo. Quindi Milano, perché noi tendiamo sempre a dire però sì, Parigi, però New York, Milano sta perdendo, no, sai, Parigi vai e goditela, però Milano, se vuoi venire a vedere veramente che cos'è la creatività e tutta l'imprenditorialità che c'è dietro, vieni a Milano. Ah, che bello, Giulia, che bello averti avuto al sabato del villaggio, anche presto, allora. Ma guarda, la prossima volta ti voglio in studio, così facciamo una bella chiacchierata come ai bei vecchi tempi di English 24. Che bello, grazie, bene, Giulia, grazie per essere stata con noi. Grazie Giulia, ciao, Crivelli. Ciao. Grazie Giulia, noi ci ritroviamo tra poco. Come dicevo, torneremo a parlare anche un po' di moda e di tendenze, perché tra poco è il momento dei consumi con la nostra Maria Luisa Pezzali. Ci ritroviamo tra poco. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme per la seconda parte della seconda ora del sabato del villaggio, perché poi vi ricordo che dopo il GR delle 17 ci cambiamo d'abito. No, vabbè, io penso che terrò questo, ma insomma, però figurativamente ci cambiamo d'abito, perché arriva Daniele Bellasio ed è il momento di RadioTube. Abbiamo parlato di tanti argomenti, ma ve l'ho anticipato con Giulia Crivelli. Abbiamo parlato di musica, TV, serie TV, cinema, tecnologia, libri, ma adesso è il momento dei consumi. Colonna sonora, andiamo a parlare di consumi e nuove tendenze. Voglio capire perché Maria Luisa Pezzali ha scelto proprio questo film, questo Boyhood. Perché, Maria Luisa, buongiorno. Buon pomeriggio Marta, un saluto agli ascoltatori. Sì, ho scelto questo film perché viene considerato il film manifesto di una tendenza che sta praticamente esplodendo, detta un po' legge in molti settori. La definizione dei trendsetter, Marta, è new normal, proprio perché è una tendenza che vuole esaltare, riscoprire in qualche modo l'ordinarietà, quindi uno stile molto rilassato, contro una moda non moda, contro tutte le mode che hanno imperato in questo periodo. Per spiegarci subito, hipster addio, hanno titolato. Quindi basta occhiali grossi, barbe, pantaloni troppo stretti, ebbene, più naturale. Sì, basta barbe, appunto, basta risvoltini, così hanno titolato molti magazine. Arrivano gli anni della normalità, in pratica è stato detto. I segnali sono moltissimi, li andiamo subito a ricomporre. La notizia, la più recente, arriva dall'annuncio che ha fatto Giorgio Armani durante la settimana della moda, tra l'altro. Beh, ne avete, sì, abbiamo parlato di questa settimana, appena parlato, che ha fatto un po' arrabbiare i milanesi con il traffico, esatto, bloccato. Sì, ma in previsione di Expo non era nulla. Quindi prepariamoci. Giorgio Armani ha annunciato appunto il lancio di una nuova collezione, sembra che arrivi a giugno nei negozi, un'intera collezione dedicata alla vita quotidiana, e si chiamerà appunto New Normal, dedicata alle donne normali che lavorano, una collezione di capi per la vita di tutti i giorni. Beh, Marta, una buona notizia. Bello, mi piace molto. Non c'entra la serie televisiva del New Normal, è proprio solo normalità e naturalezza. Sì. Luisa, ma perché mi hai citato le unghie? C'è qualcosa che riguarda le unghie? Sì, perché per il trucco, ad esempio, si segnalano per questa tendenza gli smalti effetto nude. Adesso non vorrei farti notare, ma guarda cosa ho sulle mani. Sei subito allineata tu, Marta, avantissimo. Basta glitter, scarpette ballerina, okay. Colore. Basta glitter, basta stickers, quindi nail art addio, se proprio vogliamo concederci uno strappo alla sobrietà. realtà si parla del reverse French. Quindi, ho capito. Cioè, sì. Prima era l'unghia naturale e la lunetta bianca, e adesso? Adesso il French al contrario, quindi il bordino dell'unghia, quello in risalto, non sta più nella parte alta dell'unghia, come nel French normale, ma nella parte bassa, alla base, quindi proprio un French al contrario. Ok, però comunque naturalissimo, mi piace molto, anzi, torniamo al nostro Boyhood, perché abbiamo scoperto, perché l'hai scelto appunto con un brevissimo estratto da questo film. Ehi, basta, rimettete la barriera. Vi va di spassarvela? Sì! Sì! Dai, va bene così. Posso usare le spondine? Niente spondine, la vita non regala spondine. Adesso pulisci! Abbiamo un nuovo studente tra noi oggi. Benvenuto in questo schifo. Quindi abbiamo detto nuova normalità, un film come Boyhood che ci riporta ai buoni sentimenti. Abbiamo parlato nella prima ora del Sabato del Villaggio anche del ritorno di Cenerentola, quindi Bella. Le fiabe, e peraltro in salsa moderna, quindi una Cenerentola propositiva che propugna il valore della gentilezza ma senza farsi sopraffare. Cioè, mi piace come tendenza nuova quella di pensare positivo con la gentilezza, con i buoni sentimenti, ma con una certa assertività. Beh, in tema di cinema e celebrities, ad esempio, un altro degli indizi per questo new normal sono i selfie al naturale. Anche delle star di Hollywood, insomma, viene fatto rientrare anche questo filone in questa tendenza. E poi i modelli culturali di riferimento, a me viene in mente subito Astro Samantha. Ah beh, certo, la nostra fotografa spaziale che ci manda tutto. Beh, anche lei come naturalezza, soprattutto nella capigliatura, non è male, poverina. Insomma, quello le tocca. A proposito di capigliatura, un altro degli elementi, la coda di cavallo. Ah, quella ho dovuto rinunciare da un po'. No, invece, mio classico, ma la coda di cavallo è molto new normal. Per tornare un secondo alla moda, i pezzi cult sono ad esempio i maglioncini in cashmere, le camicette a fiori, in sostanza le borsette vintage, un grande ritorno al classico, ai pezzi classici. E poi per il design mi viene in mente Muji. Certo. In tema di comunicazione, perché ovviamente anche la pubblicità inizia a cavalcare questa tendenza, mi viene in mente la campagna di Gap, del colosso americano dell'abbigliamento. Dress normal era il claim della campagna, a firmarla Sofia Coppola. Insomma, proprio un puzzle di indizi che vanno tutti riconducendosi a questa cosa. In realtà anche il cibo, ad esempio, sia il cibo naturale sano, ma non necessariamente bio. Il bio ha imperato in questo periodo, però insomma non è detto che debba essere bio per essere sano e buono, concordi? Nessun eccesso. Esatto. I critici, Marta, parlano di nuova mediocrità. Ovviamente. Perché bisogna sottolineare anche quello. Non si inventa più nulla, quindi si vuole così allineare un po' il tutto, e parliamo di new normal. Invece i sostenitori parlano di nuova autenticità. Mi piace molto come messaggio. È il momento dei nostri consigli anticrisi, Maria Luisa. Esatto. Andiamo a scoprire dove possiamo andare a risparmiare o a spendere in maniera intelligente questa settimana. Sì, perché oggi parliamo di come organizzarsi al meglio per viaggiare in aereo con i bambini, come risparmiare, ma non solo. I consigli di oggi sono anticrisi nel senso del risparmio, ma anche possiamo dire anticrisi di nervi, Marta, perché viaggiare con i bambini non è sempre facile, quindi il risparmio non è solo in termini di denaro, di soldi, ma anche risparmio di tempo, di energia, insomma tutte cose che ci costano, ecco, in questo senso anche sì. Anticrisi, ci viene in aiuto come sempre la direttrice di Markup Egidio Week, Cristina Lazzatti. Ciao Cristina. Buon pomeriggio. Allora, da dove partiamo? Allora, tanto per incominciare, ci sono effettivamente moltissimi aiuti in rete se si vuole un consiglio, se si vuole sentire parere su una linea aerea piuttosto che l'altra. Partiamo comunque velocemente perché ricordo a tutti i nostri ascoltatori che di fatto le linee aeree da e per l'Italia sono molto gettonate e lo saranno ancora di più durante quella che per noi è la classica pausa estiva, ma Expo non si ferma. Quindi attenzione, correte a prenotare perché i prezzi stanno salendo velocissimamente. Se poi in più avete pure i bambini, in linea di massima, tranne quelli fino ai 2 anni che possono viaggiare anche in braccio, cosa che peraltro sconsiglio laddove il viaggio sia molto lungo, ad esempio verso l'Oriente, e in quel caso aumenta la famiglia, aumentano i costi. E quindi bisogna assolutamente pensare a una prenotazione. Così come, giusto, consigli basici per viaggiare in aereo con i bambini, molte mamme lo sanno, viaggiare con i bambini, decollo e atterraggio, dategli il ciuccio se portano ancora il ciuccio, oppure dategli una caramella, il biberon, eccetera, eccetera, che ci sono problemi terribili con le orecchie che poi non si risolvono, soprattutto se nel momento in cui è il decollo avete tutto un viaggio con un bimbo che urla, giustamente, perché ha un male terribile alle orecchie. Quindi mi raccomando, ciuccio a portata di mano quando si decolla e quando si atterra. Ho scoperto un po' di cose girando, ci sono delle Ryanair, quindi linea aerea risparmiosa per eccellenza, dà la possibilità alle famiglie di portare un secondo bagaglio a mano. Le mamme qui che mi ascoltano lo sanno benissimo che la borsa e basta non basta quando viaggi con un bambino, perché minimo è lo zainetto con dentro tutte le cose che gli servono per giocare, e quindi il doppio bagaglio a mano è fortissimo e importantissimo. Passando alla linea aerea, quella del Qatar, che ho selezionato come dire il non plus ultra, perché a parte che a Doha, che è dove si passa sempre anche se si fanno viaggi intercontinentali, c'è una specie di parco di divertimenti al terminal di Qatar, ma in più anche mentre si viaggia un sacco di regali, astucci, sticker, spennarelli, tutto quello che serve per tenere impegnato un bambino in un viaggio che comunque in linea di massima può durare dalle 5 alle 12 ore. E il child menu c'è più o meno in tutte le linee aeree, mi raccomando ordinatelo 48 ore prima, non potete salire sull'aereo dicendo ops, ho un bambino, per cui bisogna proprio specificarlo, però una volta specificato più o meno tutte le linee aeree ce l'hanno, e anzi alcune differenziano a seconda se il bambino è fino ai 2 anni con parte eccetera e poi il resto mini burger, succhi di frutta e quant'altro. A me piace molto quando le compagnie aeree fanno l'attestato per il primo volo, il diploma per il bambino coraggioso, mi piace molto vederli questi. Il battesimo dell'aria, infatti, all'Italia lo fa, bisogna stamparlo prima, portarlo e poi il capitano dell'aereo darà poi la sua firma autografata. Se lo fate arrivare al serio, se non sbaglio costa 5 euro, mentre normalmente dovrebbe essere gratis. Poi con l'Italia, quindi la nostra compagnia di bandiera, abbiamo oltre che questo certificato, abbiamo anche a Roma la sala Young, per cui tenetele d'occhio, se passate al Terminal 1 di Fiumicino c'è una sala proprio con cartoni animati, giochi eccetera, dove ci si può fermare in attesa che parta l'aereo. Mi raccomando anche le 1000 miglia, non è vero che i bambini non possono avere la loro carta per accumulare miglia, l'Italia lo fa con i kids, e quindi fino ai 12 anni dove le miglia dei bambini vanno sulla carta dei genitori, oppure Young dove invece dai 12 ai 25 anni dove addirittura i giovani raddoppiano le miglia che accumulano, quindi vantaggiosissimo. Infine due cosine piccole, c'è un sito americano ma che si può guardare tranquillamente che si chiama Nanny in the Clouds ed è la possibilità di vedere e di prenotare una babysitter in aereo. Questo significa che dobbiamo spendere un sacco di soldi per viaggiare una signorina che manco conosciamo in aereo? Assolutamente no. È un sito che mette insieme il vostro volo con il volo di qualcuno che si dà disponibile a tenervi i bambini per qualche ora. Il costo è di $10 l'ora e vogliamo dire in alcuni momenti effettivamente ne vale la pena. Bello, ottime notizie sia per chi viaggia con i figli sia quelli che viaggiano con quelli che viaggiano con i figli, diciamo così, per tutti. Vantaggi per tutti, preziosissima Cristina come sempre, a sabato prossimo, ciao. A voi, ciao a tutti. Grazie a Cristina, Maria Luisa invece l'appuntamento con te per domani. Domani alle 15, essere avere come sempre, un saluto a tutti, ciao Marta. Grazie Maria Luisa, al prossimo sabato del villaggio. Il sabato del villaggio. L'ultimo spicchio di sabato del villaggio prima di indossare i panni di RadioTube. Intanto c'è Daniele Bellasio che sta scrivendo su Twitter, ma voglio capire se sta arrivando oppure no, perché qua è lì che cazzeggia su Twitter, ma io ti sto aspettando in studio. Vediamo se arriva oppure no. Stiamo per parlare di un argomento che in realtà potrebbe rientrare anche in RadioTube, perché è uno dei fenomeni del momento e quindi è molto da sabato del villaggio, ma è nato dalla rete. Lui è nato da YouTube e diciamo che è uno dei primi YouTuber italiani, uno dei primi famosissimi YouTuber italiani. Possiamo dire che i più famosi che hanno iniziato questa strada sono stati Wilwush, Clio Makeup, che trucca, e lui. Lui è famosissimo tra i ragazzi, è molto molto amato. Io che sono chiacchierona, parlo con tutti, questa mattina sono andata come sempre a fare metano alla macchina, perché viaggio a metano, e i ragazzi del distributore di metano di Monza, dai quali passo a fare metano, mi hanno chiesto: ma chi avrai oggi in trasmissione? Quando ho fatto il suo nome hanno detto: no, ma davvero lui? Allora, YouTube, la TV con un sacco di trasmissioni, scherzi a parte, la sua trasmissione su Sky che si chiama Sky Scherzando, perché lui è diventato famoso per questi scherzi telefonici, Le Iene. E poi cosa ha fatto? Beh, lui ha cominciato a lavorare anche al cinema, adesso esce con un film con tre generazioni di comici, Renato Pozzetto, Claudio Bisio. Il film si intitola Ma che bella sorpresa e lui è Frank Matano. Uè, che c'è da mangiare? Vogliamo prendere assieme? No, oggi non posso, devo... Che devi fare? Ho deciso, Paola, e chiedo di sposarmi. Ma sei pazzo? Perché? La conosci da un mese qui? Allora te l'ho detto, io non so spiegartelo, ma mi sembra di conoscerla da una vita. Ma non sai spiegarmelo, perché queste sono stronzate, e le stronzate non si spiegano, perciò si chiamano così. Ma che ne sai? Manco la conosci. Ma perché tu la conosci? Ma non ti sembra strano che dopo un mese non sai niente di lei? La ragazza più bella del mondo arriva a casa tua e ti chiede lo zucchero e poi dopo un'ora si dà a letto. Ma mi spieghi, come me la chiami sta cosa? A me sa tanto di amore a prima vista. A me sa tanto di truffa di un anziano. Frank Matano, un fenomeno inarrestabile, ma gliel'abbiamo chiesto perché appunto i ragazzi lo conoscono benissimo. Magari quelli che hanno qualche annetto di più non lo conoscono ancora, ma come si sente Frank Matano ad essere diventato un fenomeno così, così diffuso? Perché è così famoso Frank Matano? Come si sente? È molto bello e anche inspiegabile, cioè io non... Venendo da un paesino di 800 abitanti, Carinola, in provincia di Caserta, il contrasto è maggiore, cioè non lo capisco, però mi sto divertendo tantissimo e quindi ben venga, mi piace da morire fare questo lavoro, quindi sono fortunato. L'impatto con il cinema, perché fare una web di grandissimo successo un conto, fare la televisione un conto, però quando ti vedi al cinema ti vedi grandissimo sullo schermo, è diverso. Io sai che faccio? Con tutti i film, mo questo lo voglio fare assolutamente, vado al cinema di nascosto dove andavo io da piccolo, vado là e senti: ma chi è sto scemo? Oppure senti: guarda come mi piace questo. Quindi senti il vero commento, che il commento dietro le spalle è quello più vero, a volte più cattivo, però è meglio così. Ma che bella sorpresa, ti trovi a seguire inevitabilmente comunque le orme di Alessandro Siani, perché sì, chi va a vedere il film si ricorda la coppia, certo. E quindi per te c'era una sfida in più? Ma io viverla come... cerco di non viverla mai troppo come una sfida, se non con me stesso. Non cerco mai di paragonarmi, perché poi la vivi male, ci pensi troppo quando... Poi soprattutto come lavoro io, quando ci penso troppo sono sempre andato peggio. Quindi mi diverto, come ho detto prima, e cerco di non vivere il paragone. Alessandro è bravissimo e penso che siamo, fortunatamente, io non sono proprio di Napoli, quindi parliamo pure due lingue diverse, però il paragone ci sta, mi fa molto piacere. Ci sono tre generazioni di comici in questo film: Pozzetto, Bisio e tu, e io penso ai giovani, giovanissimi, che andranno al cinema a vedere il film di Frank Matano, perché gli altri non li conoscono. Eh sì, però questa è un'occasione, io potrò farmi conoscere dal pubblico di Pozzetto e Bisio, che sono due mostri, io veramente non ci credo che l'ho conosciuto, ci parlo, mi mandano i messaggi al telefono, e poi magari il pubblico, quello che segue le mie cose su internet, potrà scoprire quanto sono bravi Pozzetto e Bisio e tutti gli altri del cast. Io intanto lo racconto, siccome gli ho scritto su Twitter ma scendi o non scendi, Daniele Bellasi è già arrivato, vabbè, intanto sta prendendo posizione. Posso dire? Ah, sì. Ciao, ciao, sono, ci sono. Nel sabato del villaggio, hai oddio, già fatto irruzione. Sono entrato. È entrato. Poi c'è Valeria, è entrato, che vuole mettermi... Ha guardato l'orologio e poi ha detto è prestissimo. Sì, ancora un po' presto. Radio Tune tra un po'. Però stiamo parlando di un fenomeno della rete. Tu lo conosci, Frank Matano? Sì, ecco. Fa molto ridere. Fa molto ridere. Allora, adesso questo film, ma che bella sorpresa, con Claudio Bisio e con Renato Pozzetto. È una cosa che noi diciamo sempre di questi youtuber, io ti coinvolgo, è che spesso cinema e televisione li snaturano. Sì, e io sì, gli ho chiesto a Frank Matano, ho detto, ma come fai tu? E lui ha detto è vero. No. No, senti come fa Frank Matano a non farsi rovinare da cinema e televisione e rimanere il Frank Matano che ha esordito con YouTube. Non sembra, però sono molto riflessivo sulle cose che faccio, cioè io dico di no a un miliardo di cose, però quando ti trovi in un contesto, per esempio con Claudio capisce perfettamente il linguaggio e quando facciamo qualcosa assieme non mi snatura mai perché capisce i miei limiti e i miei massimi, no? E quindi ho fatto così. Le Iene sono un programma, se ci pensi, totalmente internettiano. Ogni servizio potrebbe tranquillamente vivere da sé su YouTube, sia comico che di inchiesta. E quindi ho fatto pure delle cose che non erano molto nelle mie corde, ma ho capito, quindi l'esperienza devo sempre trovarmi, diciamo, in un luogo dove mi sento a mio agio, perché appena ti senti a disagio succede quello che hai detto tu, che ti snaturi perché cerchi poi di copiare il linguaggio vecchio. Devi, perché sai qual è la cosa più difficile, da chi viene da internet ho visto, è che internet è un mezzo così immediato, da un giorno all'altro tu puoi fare un milione di visite e non sei consapevole dei tuoi mezzi, e quando non lo sei ti tendi a fidarti di persone che magari ti stanno dicendo la cosa sbagliata, perché dici questo fa la televisione, allora faccio quello che dici. Tu invece devi essere deciso, devi dire io sono così, e devi cercare di essere fedele a te stesso. E a questo punto ti devo chiedere un consiglio, perché io ho un nipote di 14 anni, guarda internet e dice ma anch'io voglio fare lo youtuber o le cose su internet. Tu che consiglio dai ragazzi? Allora, intanto io non avrei mai avuto il coraggio di fare un provino. Internet dà la possibilità pure a chi è timido di provarci, e questa è secondo me la cosa più bella che può fare YouTube, Facebook. Il consiglio è di avere una passione, farla. All'inizio puoi copiare e poi vedi cosa succede, nel senso provarci non costa niente, il bello di internet è questo, cioè devi divertirti e avere una passione, poi unisci le due cose e vedi poi se c'è il talento o non c'è, ma ci sta pure chi ce la fa senza talento, quindi si può fare. Ultima cosa, di consiglio in consiglio, perché andare a vedere Ma che bella sorpresa? Perché si sono fusi veramente le tre generazioni di persone che fanno ridere. Ed è molto interessante vedere la fusione di queste tre cose, come vivono assieme, come possono vivere più generazioni assieme. Fa proprio molto molto ridere. Bisio, non ti dico la bravura che ha in questo film, eppure è un mimo pazzesco, perché doveva recitare con una donna che non c'era. E tu la vedevi però fa molto ridere, perciò dovete andare. Beh, abbiamo anche incontrato Frank Matano. Daniele Bellasio è già arrivato, si è già sistemato in studio. No, perché questa cosa della barba, che non ho capito bene. Sì, perché si è arrabbiato perché abbiamo detto che le barbe passano di moda. Basta, sì, Daniele, peraltro basta tu barba. Gli occhiali hipster ce li hai. Secondo me vedi benissimo, ma per essere no, hipster sono hai gli miopissima. Occhiali. Allora, è il momento di dare la linea a GR24. Noi ci ritroviamo tra poco, perché davvero sarà il momento di Radio Tube, tra pochissimo.